Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Se Cristiano Ronaldo ha lasciato l'isolamento fiduciario per andare in Portogallo, tra l'altro è rientrato anche col Covid, è normale che poi tutti i tifosi della Juventus o tutti i personaggi vicini all'ambiente juventino dicano: allora è giusto il 3-0. Che se ne frega di sti medici? Cioè, che potere possono mai avere i medici dell'ASL? Dai! Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pellegrini, posizione regolare, Pellegrini, il vantaggio dell'Italia. Prova a girarsi Depay, pallone che impatta su Van de Beek. Arriva il pareggio dell'Olanda. Scatta Immobile, cerca di servirlo Pellegrini, che però è recuperato. Errore clamoroso, Immobile para Silesen. Purtroppo mi sono trovato avanti a leggere cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Hai detto tu del gol di Ciro che si è, tra virgolette, mangiato. Stiamo parlando di un attaccante che l'anno scorso ha fatto 36 gol. Se lo faceva Lewandowski avrebbe avuto tutti i titoli del mondo e in Polonia ha trattato come un re. Qui Ciro Immobile viene trattato come l'ultimo dei moicani. L'Olanda è una squadra forte, con giocatori forti, quindi sappiamo che sarebbe stata una gara dura. Potevamo forse oggi chiuderla, adesso ci metterà un po' di pressione, no, per quella partita con la Polonia e il risultato di stasera. No. Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo. Io lo so, vi conosco, so che volete andare subito in prettura, però prima c'è la nazionale. Con mio grande piacere, poi andiamo in prettura finché volete. 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666, e tutto accadrà dopo radio tweet di Pierluigi Pardo. Sì, io non voglio andare in pretura, però ci vieni, prima, amico mio. Sì, no, ci vengo, so che mi devo camazzo, ma veramente oggi preturona, perché dopo la borsa parleremo anche di quell'altra sentenza attesa, quella del caso Iannone, che dovrebbe arrivare lo so, oggi è così, per puntata per avvocati e magistrati. No, Eriksen, adesso parliamo anche della nostra nazionale, però credo che Eriksen in queste due partite abbia dato una dimostrazione enorme, ulteriore, di quello che è il suo talento, il che non vuol dire che Conte sia un fesso, tutt'altro, e che Eriksen non abbia probabilmente le sue colpe e una certa timidezza che ha avuto fino a questo momento, però insomma queste due partite confermano, come se ce ne fosse bisogno, non solo il talento lo si conosceva, ma anche il momento, cioè, si dimostra che questo giocatore sta bene. Oltre a essere forte, sta anche bene. Quindi continuo a pensare che sia una win-win, cioè una possibilità per tutti e due, quella di trovare, visto che Conte è un grande allenatore, Eriksen è un giocatore che può fare la differenza nell'Inter, trovare una quadra. E penso che sia il grande interrogativo nella testa di Antonio Conte. Gli crea un problema? Ma no. Cioè, l'Inter teoricamente può vincere anche senza Eriksen, o quantomeno può essere competitiva anche senza Eriksen, però secondo me se si trova una quadra diventa ancora più forte, quindi secondo me io la vedo il bicchiere mezzo pieno, e credo che alla fine anche Conte debba essere contento di aver visto, a parte che ha avuto Lukaku, notizia, di cui stiamo parlando, sì. Vidal, Sanchez, cioè, se dovessimo valutare la condizione dell'Inter dalle nazionali sarebbe clamorosa. E no, io penso che Eriksen è un leader nella sua squadra, e che è stato un leader nei club, e che è oggettivamente un corpo estraneo in quest'Inter, ripeto, per sua colpa anche, soprattutto per sua colpa, perché non è che o per incompatibilità tecnica, sì, però io l'incompatibilità ci credo poco, e penso che questa possa essere un'opportunità, insomma, anche di ripartenza. Ascolta Pier, in questi giorni però è quasi bello, no, con tutto quello che succede, l'apertura che ci aspetta eccetera, preoccuparci per un problema di puro calcio. Italia due punti, numero 9 cercasi. A parte sì, che è stato allora, bello, secondo me, abbiamo sentito in copertina sentire Florenzi, che non è neanche suo compagno di squadra, di Immobile, difenderlo in quella maniera lì. A me è piaciuto molto. Credo che ci sia stata anche una cosa tra Pellegrini e Immobile che fa, insomma, di un abbraccio social a dimostrazione del fatto che, insomma, però è bella perché sai, il derby a Roma viene vissuto con la giusta la giusta tensione, invece. Però non vorrei dire cose false, credo che Immobile abbia ripostato una cosa di Pellegrini, magari Claudia lo controlla. E, no, io sono d'accordo con Florenzi, cioè io credo che veramente discutere Immobile, allora Immobile deve fare un salto di qualità a livello internazionale di grandi partite indiscutibile, e sono io il primo a dirlo, e penso, come dico spesso, che la Champions League di quest'anno sia una grande opportunità, perché semplicemente lui certe partite negli ultimi anni non le ha giocate. Le partite di Champions League, tanto per essere chiari, le partite in cui si fa la storia di un attaccante. Sì. La continuità di rendimento è incredibile, cioè che ci sia un eccesso di critica nei suoi confronti è pacifico, ma è evidente, insomma. Poi che lui debba crescere nelle grandi partite, questo è indiscutibile ed è una cosa che spetta sicuramente a lui, e lui lo saprà per primo, però discuterlo, poi c'è il solito discorso, insomma, se uno guarda la palla gol, la più clamorosa, alla fine lui arriva ad averla quella palla gol, no, poi è chiaro che conta buttarla dentro, però cioè delle volte sembra chi lo stolto, ti piace lo stolto, dai, cioè, l'analisi superficiale ti potrebbe far pensare che per un attaccante è meglio non avere una palla gol che magari si procura e poi la fallisce. La famosa palla gol dall'anno scorso di Lukaku contro il Barcellona, quando lui va, recupera un pallone, fa una cosa, se la inventa da solo e poi sbaglia clamorosamente. Allora non è che uno gli deve dire bravo perché ha sbagliato, però secondo me dal punto di vista di un allenatore tu vedi l'azione della sua interezza. Allora l'azione di Immobile di ieri nell'interno della sua interezza, la palla gol del 2-1 è un'azione nella quale lui comunque il suo lo fa, poi sbaglia sotto porta e chiaramente non è un dettaglio, però insomma non facciamoci secondo me troppo condizionare. E poi che non abbiamo Cristiano Ronaldo o Lewandowski lo sappiamo l'altro giorno quando Capuano prima di parlare in Italia mi faceva tentava il paragone Lewandowski Immobile, è un paragone che come gol ci sta tutto, ma come statura anche e soprattutto internazionale non ci sta, ma questo penso che lo sappia lo stesso Ciro. Sì, però sì, certo. da qui a, cioè io sono d'accordo con Florenzi, è sottovalutato. Ma Mancini prima della partita in Polonia aveva detto se fosse una squadra di club e con Immobile come nostro centravanti titolare segnerebbe in una stagione di campionato almeno 25 gol, questo aveva detto Mancini. Sì, discorso che rimane aperto, perché adesso amico mio ti devo portare in pretura. La decisione del giudice sportivo in merito alla partita non giocata tra Juventus e Napoli. 3-0 a tavolino per la Juventus, un punto di penalizzazione per il Napoli. Allora, De Laurentiis va alla riunione con tutti i sintomi del Covid, zero denunce. Il Napoli decide che se ha i positivi lui non va a giocare, perché sicuramente la non è intervenuta da solo ma è stata contattata dal Napoli. Tutti gli altri invece devono giocare. Bella regola, complimentoni. Alla fine hanno sempre ragione loro, non ci sta niente da fare. Arroganti, presuntuosi, ignoranti, ma hanno il potere. Camma fa. Le opinioni, le più varie, anche le vostre, se volete, 349. Confermato 238, che era Pellegrini 6, con Immobile. Sì, confermato. Confermato. Confermo. Molto bello, dai, andiamo in pretura, su. Andiamo in pretura, Maurizio De Giovanni e Massimo Zampini, eccoli qua. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Uno fa l'avvocato, l'altro lo scrittore, già questo secondo me configura una situazione asimmetrica. direi, sono perdente in maniera clamorosa, credo. Senti, la sentenza, io parto da una valutazione di Pierluigi Pardo, di questa sentenza del giudice che ha sostanzialmente rivendicato l'autonomia dell'ordinamento sportivo, no? Chiaro che è il primo di tre tempi o di più, no? Poi vediamo che succede, bla bla bla, ricorsi e mica ricorsi. Che ne pensi e poi se andiamo da loro signori? Io ne penso che è un casino perché qui non è soltanto Juve-Napoli, è uno scontro fra poteri, perché non è che l'ASL non si sia proposta, anche se lo ricordiamo, il comitato tecnico scientifico era presente quando è stato fatto il protocollo, quindi c'è qualcosa che non torna, perché se il comitato tecnico scientifico decide una cosa e quindi il governo con i tecnici, la scienza decide che quel protocollo va bene, poi dopo due giorni un organo diciamo locale che va a contraddire questa cosa crea inevitabilmente un problema. E il problema è questo, è lo scontro fra poteri, è lo scontro fra il mondo dello sport con le sue regole, che vive certamente le sue peculiarità da sempre. Abbiamo ricordato la clausola compromissoria, abbiamo ricordato tante situazioni senza le quali il calcio e lo sport non potrebbe esistere. Quest'anno, non mi ricordo chi lo diceva ieri, forse Ricci, se i calciatori vengono trattati come normali cittadini dal punto di vista delle precauzioni sanitarie, non si gioca a pallone. Sì. Questo è chiaro a tutti, credo. No? Poi ieri credo che il giudice sportivo abbia preso atto, cioè, ha emesso un verdetto che io mi aspettavo. Poi adesso il Napoli avrà ovviamente il diritto di andare in altri ambiti, in altri campi, a rivendicare i suoi diritti. L'argomento del 3-0, sai che mi appassiona meno forse di una puntata, di una replica di non lo so, di Dynasty di 20 anni fa. Maurizio? Sì, allora, io credo che il calcio ieri abbia perso l'occasione di dimostrare di non essere in maniera insopportabilmente autoreferenziale. Il calcio fa parte del mondo, capisco che faccia comodo a tutti, in primis all'informazione sportiva, per esempio, che il calcio vada avanti, che vada avanti bene, che si giochi, che le partite si vedano, ma il calcio fa parte del mondo e il mondo è regolamentato dalle leggi degli stati. L'ASL non è una bancarella locale manovrabile dai privati cittadini. L'ASL è un organo dello Stato che, se decide per salute pubblica una determinata cautela, questa cautela va seguita. A Napoli è stato combinato un provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario. Non poteva il Napoli commettere un reato, semplicemente. A Napoli conveniva andare a giocare. Chiunque mastichi un po' di calcio e vede il calcio sa bene che una Juventus in quel momento tecnico, con 4-3 infortunati squalificati, con Douglas Costa già venduto ma Chiesa non ancora acquistato, con una squadra che stava cercando un equilibrio tecnico, se c'era un momento per giocare quella partita era quello per il Napoli. Quindi non avrebbe avuto nessun vantaggio il Napoli a non andare a giocare quella partita. Quindi a mio modo di vedere ieri è stata persa una grande occasione di dimostrare, per quanto riguarda il calcio, che va preso atto che il calcio fa parte di questo mondo. Noi andiamo, ieri abbiamo superato i 7.300 positivi, andiamo incontro oggi, a quanto mi risulta, a cifre ancora maggiori, sensibilmente maggiori. Si parla di lockdown, si parla per dire che non si fa, ma se ne parla e questo già è indicativo. La Lombardia, dove giocano metà delle squadre della Serie A, ieri aveva 1.800 positivi. Non rendersi conto di questo, secondo me, è veramente una cosa che può portare il calcio alla morte. Avvocato Zampini. No, io dico, dipende di cosa parliamo, ci sono vari piani. Allora, Pierre ha aperto un piano che è troppo complicato, cioè che è quello della legislazione concorrente tra Stato e Regioni in materia di salute, praticamente quella è una cosa di cui però discutono da decenni, da quando c'è la riforma del titolo quinto. Ricordiamolo, in sostanza lo Stato determina i principi e le Regioni devono attenersi, le Regioni faranno nel dettaglio, ma ripeto, è un discorso troppo complesso che non possiamo risolvere mai noi qui, ma è complicato anche per esterni, quindi questo è anche la sentenza, rispettiamo la sentenza e va benissimo così. Però tornando a quello che dice Giovanni, cioè il punto secondo me è proprio quello, cioè nel momento in cui la Lombardia eccetera eccetera, l'esempio che ha fatto, e tutti stanno provando a far funzionare il campionato di calcio, dobbiamo decidere se tutti hanno firmato un protocollo che è lo stesso, poi ricordiamo, che ha fatto funzionare il calcio nei due mesi in cui siamo riusciti a portare a termine le competizioni. Se sono tutti d'accordo devono rispettarlo. Lui poi mi dice, ed è la tesi del Napoli, l'ASL però è un organo, e non c'è dubbio che l'ASL, se mi dice l'ASL tu devi rimanere a casa e non puoi partire, io c'ho poco da partire per dire c'ho da giocare la partita contro la Juve. Ma qua Mastrandrea, ieri il giudice Mastrandrea ha scritto altro, cioè lui dice quando venerdì l'ASL comunica con il Napoli, fa riferimento, e c'è già un positivo, dice dimmi i nomi, ok, perché prescrive le solite prescrizioni con sull'isolamento fiduciario, gli sta intorno eccetera eccetera. E soprattutto dice quanto al rispetto del protocollo, si vede che il Napoli aveva chiesto qualcosa, evidentemente, non lo so, perché non ho accesso al carteggio, dice la responsabilità è del medico del Napoli. Il giorno dopo stessa cosa si riparla di isolamento fiduciario. Tanto che il Napoli non ha nessuna certezza a quello che si evince dall'ennesima richiesta di chiarimenti da domenica, alle 3, alle 2 e mezzo, non so che ora, alle 2 e un quarto, risponde l'ASL e dice non è andata a giocare. Ma io mi chiedo una cosa, se il Napoli firma un provvedimento, un protocollo che funziona da mesi, in cui è previsto l'isolamento fiduciario che però permetta lo stesso di giocare con una partenza autonoma, si ritorna, non si dorme lì, torna in bolla, eccetera, eccetera, e l'ASL ti dice sei in isolamento fiduciario, cosa fa pensare al Napoli lì che non debbano partire? Poi quello che accade la domenica è un altro discorso, ma io non l'ho capito. Aggiungo solo una piccola domanda, che per carità, come dicete Giovanni, ci sono problemi maggiori, ma è ovvio, allora non dovremmo neanche star qua a parlarne mentre la gente muore, questo è un altro tema. Aggiungo una domanda, restando al campionato, ma se l'ASL conferma, perché anche dopo conferma, per noi isolamento fiduciario vuol dire tu devi restare a casa e non puoi partire, cioè vuol dire che è finito il campionato del Napoli, cioè il Napoli se avrà un positivo, credo che lo abbia già, ancora temo che Elmas e Zinizio siano, cioè non può più giocare a pallone, devi restare e chiuso. Questo me lo sono chiesto anch'io. È finito il campionato, basta saperlo, si vive lo stesso. No, abbiamo ospitato infatti in quel giorno il dirigente dell'ASL di Napoli, che confermava a pieno titolo la legittimità dei suoi provvedimenti anche per il futuro, e questo mi ha portato a grandi dubbi. È chiaro che qui si balla tra due ordinanze dell'ASL, scrive il giudice sportivo, una del venerdì che non, secondo il giudice sportivo, non vietava il trasferimento, e l'altra della domenica che invece lo vietava. È chiaro che è una grande confusione, però Maurizio, tu dici, e poi Chiosa Pardo, tu dici c'era il Napoli, quale momento migliore per il Napoli andare a Torino ad affrontare la Juventus? È chiaro che questo... A me sembra un contenzioso non tra Napoli e Juventus, sia chiaro, ma tra Napoli e Lega Calcio, no? Tra Napoli e Lega Calcio, che era Lega Calcio, no, ha detto voi. Io volevo soltanto diciamo individuare l'assurdità della tesi complottistica. Io sento dire da più parti che De Laurentiis avrebbe contattato la ASL, data la sua amicizia con De Luca, per ottenere questo provvedimento, ma perché avrebbe dovuto? La mia era l'indicazione che non c'era alcun motivo. Il problema è un altro, il problema è che il protocollo è stato mal fatto, perché è stato fatto senza prendere in considerazione le regioni e le ASL, che sono invece attrici dirette, primarie in materia di controllo della salute pubblica, quindi è stato già sottoscritto senza ruoli principali, attori principali del contesto, e soprattutto è stato fatto in un momento in cui eravamo molto vicino a contagi zero. Ora, se un protocollo in quanto tale tra soggetti privati ha un vantaggio, è quello di essere flessibile e aggiornabile, no, contrariamente alle leggi dello Stato che hanno bisogno di un determinato curso. Allora tu prendi il protocollo, noi abbiamo avuto la partita col Genoa, è primaria, non si può parlare di questo argomento senza tener conto del fatto che il Genoa è venuto a giocare a Napoli avendo 20 positivi. Gli attuali metodi di controllo e diagnostici prevedono che tu puoi essere tranquillamente positivo per 7 giorni risultando negativo avendo di incubazione. In quei 7 giorni tu giochi 2 partite. Quella è l'anomalia, Maurizio. Con i tuoi compagni. Quella è l'anomalia. Potenzialmente puoi infettare 200 persone. Ecco l'assurdità di quel protocollo in questo momento. Scusami Carlo, posso solo al volo? Dico, va benissimo, ripeto, quello che dice De Giovanni, basta dire che è finito il campionato. Ma non che sia una tragedia, andranno avanti le nostre vite. Ma chiudono le aziende, chiudono le industrie, oppure li prendi e li metti in una bolla per 3 mesi, come ha fatto la NBA. Allora, perché chiudo. La NBA l'ha fatto. Il problema è che tu vuoi giocare 40.000 partite. Però non ho capito se i campionati ridotti al minimo, con magari i playoff in un posto dove questi giocatori sono sotto controllo per 3 mesi, sì, il campionato Maurizio, lo puoi fare. Lo so, ma le regole attuali sono diverse. O le cambiamo entro il weekend, o non si gioca. Scusate, ma la Juve domani va a Crotone, dopodomani senza Ronaldo e compagnia, McKennie. È così? Oppure non deve partire? Non ho capito, secondo De Giovanni, qual è, siccome il paese vive questo periodo, non deve partire. Ronaldo non si sono allenati con i compagni per una settimana, come invece hanno fatto Elmas e Zielinski. McKennie e Ronaldo non si allenavano con i compagni e hanno preso la loro positività fuori dalla bolla. McKennie sono usciti, peraltro, in maniera non del tutto cristallina. McKennie sta a Torino, poi non so più come ripetere. McKennie sta a Torino e si allena con gli altri. La Juve in isolamento fiduciario, ed è l'ha comunicato ieri, quindi non dobbiamo andare a Crotone. C'è un serissimo rischio che se ci sono 10 positivi nella Juventus infetteranno integralmente la squadra di Crotone. Non dobbiamo partire, allora non si gioca. È assurdo che il calcio non prenda atto di quello che sta succedendo nel mondo. Questo è il punto, è una cosa di tutta evidenza che non è controllabile con gli attuali numeri, il contagio, con le attuali regole di questo protocollo. Allora Milano lo stesso giorno parte per una Campana con un positivo, avendo un positivo nella, diciamo, nella rosa, parte il Napoli primavera, parte, questa è la salute. Il Napoli no, attenzione, il Napoli primavera non parte, non gioca. Sono partite entrambe la settimana scorsa e il Napoli dei grandi, attualmente no, il Napoli primavera, No, la settimana di Juventus Napoli è partita lo stesso giorno. Ma la primavera è partita la Salernitana. Ma Palermo non si è giocata, per esempio, nella Pierluigi, quindi se è così, cioè se la teoria di Maurizio è che non in questo momento col protocollo attuale non si gioca più. Ma allora ricordiamo che il protocollo era stato approvato, era stato fra l'altro con colpevole ritardo approvato credo i primissimi giorni di ottobre, l'1 o il 2 ottobre, qualcosa del genere. Dal punto di vista numerico, della definizione numerica degli organici. Che cosa è oggettivo? È oggettivo che nel giro di 15 giorni, anzi nel giro di una settimana, è cambiato tutto in Italia. Questo va detto perché insomma siamo passati lo diciamo tutti i giorni, da un contagio lineare che era grosso modo sempre lo stesso, che è durato per un mese, a un'impennata clamorosa. Quindi è ovvio che la situazione è cambiata. Da questo punto di vista la flessibilità serve. Io sono giorni che parlo di questo piano B, ma non perché mi piaccia, è quella cosa che dice Maurizio, cioè se ci si renderà conto che non si può vivere una stagione normale, cioè non si può far passare ai giocatori la quotidianità che c'era negli anni passati, perché più giorni passano tra una partita e l'altra e più contatti anche banali col tabaccaio, col fruttivendolo ci sono e più c'è la possibilità di contagiarsi, è chiaro che si dovrà andare in una bolla. Sono d'accordo, e lo dicevo anche qualche giorno fa, sulla assenza del movente, nel senso che se noi dobbiamo valutare da un punto di vista strettamente teorico le prime due giornate di campionato, noi abbiamo visto il Napoli giocare meglio della Juve, quindi francamente la convenienza io a priori non la vedevo per il Napoli di rimandare questa partita. Certo, quella settimana lì è stata comprensibilmente una settimana per i giocatori del Napoli molto complicata, con tutti questi tamponi e con l'anomalia del caso Genoa, che onestamente non è il singolo positivo o i due positivi, ma è un'intera squadra che non a caso in questo momento adesso rischia di avere delle conseguenze su questo primo scorcio di stagione, perché al di là del fatto che vedremo quanti giocatori recupereranno per Verona Genoa, bisognerà anche capire in che condizioni fisiche sarà la squadra. Quindi insomma è una pagina secondo me volevo chiedere una cosa, ma ricordiamoci che esisteva sempre il jolly per il rinvio, esiste sempre il famoso jolly che una società può giocarsi chiedendo con 10 contagiati. Però Maurizio, con 10 contagiati deve avere 10 contagiati nell'arco della settimana, perché altrimenti 10 contagiati, però anche qui scusate, non è per essere dispattista, il problema sta a monte ed è un problema di diagnostica, nel senso che se tu hai la possibilità di covare per giorni il virus senza che appaia la tua positività, capisci che ogni attività di screening diventa complicatissima, perché tu magari risulti negativo, ti alleni normalmente e poi infetti gli altri. Quindi è veramente una situazione nella quale, ripeto, ce la si può cavare soltanto col massimo della trasparenza da parte di tutti nell'applicazione dei protocolli e in una sorta di atto di fede che viene fatto. Detto questo, se ci rendiamo conto, e può succedere già fra pochi giorni, che non ci sono le condizioni per proseguire regolarmente la stagione, si attua qualcos'altro, però pedain che voglio no, partita, ma, se non ma fa nessuno, male. Nessuno l'unica cosa che dico è che c'è un quadro regolamentare, o lo cambiamo, certo. Stiamo all'interno di quello. Volevo chiudere con Massimo Zampini, perché tu alla fine tutta questa vicenda si è tradotta in tifo, no Massimo? Juventus contro Napoli, a me sembra piuttosto un confronto tra Napoli e Lega Calcio, perché non dimentichiamo che De Laurentiis aveva già avanzato la volontà, cioè aveva già chiesto alla Juventus e alla Lega Cosa ne dite se rinviamo questa partita? Respinto con perdite e poi è successo quel che è successo. Per la cronaca, giusto Massimo? No, no, ma è evidentissimo, cioè la Juventus in questo non decide nulla, la Juve si presenta in campo, qualcuno ha criticato addirittura l'essere sceso in campo, ma sennò avrebbe perso la Juve 3-0 a tavolino, e la Juve entra in campo e non fa nient'altro. Agnelli parla solo perché è intervistato il giorno della partita e spiega quello che è accaduto, e io ripeto, quello che dice il giudice, non è che l'ASL non conta nulla, il giudice Mastroandrea, dice l'ASL non ha detto di non giocare fino alla domenica alle 2:30. Questo è il punto che lui fa capire, poi ragazzi, che sia vero o no, tipo, non diventa una questione di tipo. Dico solo una cosa, che una cosa è discutere il protocollo come sta facendo legittimamente De Giovanni e in parte anche Pierluigi, sì. Però non è che questo si fa quando c'è Juventus-Napoli, non vengo, mi presento sempre. E da lì si cambia tutto. Sono tre mesi che giochiamo così in Coppa, in campionato, ovunque, cioè, questo è il protocollo. Sono la cosa più avvilente di tutta questa vicenda è che una questione così seria poi alla fine diventi motivo di spottò Juve-Napoli, cioè, ma veramente, ma chi se ne frega, ma insomma cerchiamo di crescere un po' tutti. Poi capisco che ci sia la discussione sul 3-0, va benissimo, e va bene, fa parte del bar delle nostre vite, amen, però insomma, ecco. Un appello finale assolutamente necessario è ricondurre a una lista delle priorità effettive, della vita proprio. Ci perdiamo veramente nel ridicolo tutti. Sì. Una cosa finale, Massimo, non è che il calcio non debba esserlo, perché è una cosa, cioè per me il calcio lo è, come la cultura e altre cose sono parte priorità della vita. Certo, non voglio far ammalare nessuno, questa è la priorità, sono d'accordo, superiore. Per il resto, il trattare come hanno fatto alcuni ministri il calcio, come se stiamo parlando fosse una colpa, sì, e se appassionato di calcio, non lo condivido. Posso fare un appello finale ai sindaci, al sindaco De Magistris, ai presidenti di regione, al presidente Luca, possibilmente anche ai ministri, cioè questa è una sentenza sportiva dell'ordinamento sportivo. Non vorrei sentire da oggi in poi di nuovo commenti, critiche, ma qua ha perso il calcio, ha perso la cosa, mi aspetto una decisione, cioè risponde, c'è un giudice nel calcio apposta. Queste cose per raccattare voti, complimenti, e vai la Juve, le battute contro Agnelli di un presidente della regione, ma dove siamo? Ma che paese siamo diventati? Grazie ragazzi. Torneremo a parlarne, grazie Maurizio, grazie Pierluigi, grazie Massimo Zampini. Ci fermiamo per la borsa, poi c'è un'altra prettura che ci attende ed è quella che sta giudicando in questi minuti Iannone. Beh, ma se a loro va bene vincere così, va bene anche a noi. Io sono tifosore del Napoli, come si è capito. Però probabilmente quella partita loro l'avrebbero vinta lo stesso, quindi hanno perso veramente una grande occasione. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Tutti convocati. Non è mai stato facile arrivare fino ad oggi, perché in ogni giorno dal 17 dicembre ad oggi non c'è stato un solo giorno che non ho pensato a questa vicenda, a questa situazione, a quanto mi manca la mia moto, il mio sport, il mio lavoro e a quello che mi è stato tolto. Sono tranquillo, da parte di Aprilia loro mi hanno aspettato, mi aspettano, so bene qual è la loro priorità, qual è la nostra priorità, di entrambi. E quindi sotto questo fronte non sono preoccupato e sono assolutamente orgoglioso e motivato. Oggi a tutti convocati in prettura, passiamo dalle aule di giustizia italiane con la sentenza su Juventus-Napoli a quella che è ancora attesa, ma conto che arriverà in giornata, credo, da Losanna, dal TAS sul caso Iannone. Stavolta in tribunale ci porto Carletto Perna. Ciao Carlo. Speriamo di no, è forte, mi ci manca come sempre. Ma no, ma a farmi compagnia, amica. Sì, beh, sicuramente metto una toga. E io tu sai, con te vado ovunque, anche se tu. Sei... Beh, io ti voglio, ci figurati. Compagno di viaggio meraviglioso. Tanto tu sei a Aragone e io a Milano. Tanto, sì, c'è anche bel sole, c'è un bel sole, 15 gradi, però. C'è una rieta fredda, un po' molto vento, lo so, però qui il sole c'è. Non riesco a vedere tutta la settimana bene. Non riesco a dispiacermi sul fatto che ci sia rietta. Senti, cosa ci aspettiamo da questa sentenza? Cosa ti aspetti? Sei anche ovviamente molto vicino a Iannone, sei stato, eccetera, conosci molto bene la vicenda. Cosa ti aspetti legittimamente? Guarda, è una sentenza politica. Diciamo le cose, mettiamo le cose a punto. Finora la UAB ha sempre detto che ha l'associazione alimentare no, quindi lo ha fatto con tutti gli sport. Probabilmente Andrea è stata una vittima sacrificale, è innocente perché le motivazioni erano non dolose, non colpose, quindi era abbastanza chiaro. Però io mi aspetto una sentenza politica, cioè la sentenza politica divisa in due: o viene condannato, spero che venga condannato, non che sia condannato, spero che sia condannato con una pena che ha già fatto, quindi praticamente 12 mesi, e sarebbe secondo me una delle soluzioni più logiche, oppure una condanna brutta. È una cosa politica. O la UAB si Però Carletto, in nome della politica e di queste ragioni non puoi neanche troncare la carriera di un atleta che tu dici non ha fatto niente, cioè capisci che... Sono perfettamente d'accordo, però qui purtroppo è politica. La UAB ha sempre fatto così, per loro l'intossicazione alimentare è doping, voluta o non voluta, la pena cambia, è evidente. Io spero che l'intelligenza superi la politica, cioè io sono convinto che succederà una cosa di questo genere, praticamente lui ha già scontato tutto. Certo. Questo mi auguro e dovrebbe essere una delle soluzioni che salva la UADA, perché ha dato una squalifica per intossicazione alimentare e permette a Andrea di fare quello che è il suo mestiere e di farlo bene, ancora più motivato, come ha detto lui. Senza dimenticare che per i tempi della giustizia la decisione del ricorso arriva praticamente a fine stagione, quindi anche dovessero dire no, per noi è innocente, a quel punto qualcuno direbbe va bene, però l'avete fermato un anno, gli avete tolto una stagione intera, ma per quello, con un contratto già firmato con l'Aprilia, certo. È chiaro che insomma... Ma per quello che gli dico che non gli faranno una sentenza di innocenza, faranno una sentenza di colpevolezza se la faranno, considerando che non c'è dolo e non c'è colpa di quello che hanno già dato, punto. Secondo me questa è la cosa che andrebbe fatta, pur considerando che Andrea è innocente, lo ripeto, dal punto di vista personale. Però io ho guardato un po' le pieghe della sentenza. Ecco. Certo, senti, parliamo di cose un po' più divertenti. Settimana interessante per la Ducati, che vince con forse col numero sbagliato, potrebbe dire qualcuno, cioè il 9 invece del 4 in prospettiva mondiale, ma vince. Sì, direi che è una vittoria di tutta la... Allora, diciamo che è la vittoria di Petrucci, perché vince... sempre il pilota, è il pilota che è sulla moto, è il pilota che vince, è il pilota che fa le curve, che sia asciutto, che sia bagnato. Però diciamo che è anche una vittoria della Ducati, è un pilota Ducati, la moto che guida la Ducati. Ci vorrebbe più serenità in questo momento, anche per permettere a Dovizioso di giocarsi un mondiale che si può ancora giocare. Deve fare probabilmente uno switch Andrea, Dovizioso, perché... se vince Petrucci, se una volta dove fa secondo, se Bagnaia fa il podio, significa che la moto poi tanto male non va. Sicuramente. Un'altra notizia importante in casa Ducati: Superbike Aruba Ducati, cioè team ufficiale. Com'è il nuovo pilota che hanno preso italiano al posto di... Di Chas Davis che era lì da mille anni. Come Michael Rinaldi? Che pilota è? Guarda, il pilota ha dimostrato di essere un giovane molto molto forte, probabilmente manca di esperienza, questo è evidente. Sai, la Ducati metterlo subito lì probabilmente ha fatto bene. Io ancora un anno con una moto ufficiale in un team privato gliel'avrei fatto fare. Però è una scelta giusta, è una scelta di un pilota che va molto forte, è stato subito gratificato. È chiaro che è una grossa responsabilità per un pilota essere gratificato subito in quel modo. E lì si vedrà la testa del pilota com'è. Le doti ce l'ha, il talento ce l'ha, e la terza poi è quello che fa la differenza. Chiediamolo a lui, cosa dici? Sarà meglio, sì. Ciao. Sa più di me, quello è chiaro. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Hai sentito, Carletto Pernat? Ciao, grande responsabilità. Ciao. Vediamo, adesso tocca a lui. Sei pronto? Sì, esatto. Come ha detto Carlo, serve la testa. Quando arrivi in un team factory, ovviamente ti vengono date certe cose che nei team privati non hai, però ti vengono date anche delle responsabilità. Cioè, ci si aspettano ovviamente delle cose, dei risultati, però io sinceramente sono molto contento di entrare ufficialmente nella famiglia Ducati, uh-huh, a Ruba, uh-huh, e quindi non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Sì, ti dà la moto Chas Davis, che era lì da praticamente da un'era geologica, no? Quali sono i tuoi rapporti, sì, con lui? Ho visto un interessante tuo post. Sì, questa mattina diciamo che l'ho visto a colazione e giustamente ci ho parlato perché c'ho un ottimo rapporto. Quando sono arrivato in Stock 1000 nel 2016 col Junior Team Ducati a Ruba, lui mi ha subito accolto come un fratello, no? E quindi non dico che mi sento in colpa, però ho un rispetto verso di lui. E stamattina abbiamo parlato proprio come due amici e ci siamo scambiati delle opinioni, ma ovviamente lui non ce l'ha assolutamente con me. Certo. E quindi il nostro rapporto è ottimo. Sai cosa vi dice sempre Carlo Pernat? Che il primo rivale è il tuo compagno di squadra. È vero, Carletto? No, questo è vero, l'ho detto anche in un'intervista che mi ha fatto Dorna poco fa. Uh-huh. E quindi da un certo punto di vista, se era Chas il mio compagno di squadra il prossimo anno, magari si sarebbe rovinato un rapporto che buono che ho con lui. Invece, essendo Scott, essendoci comunque rispetto, ma non c'è un'amicizia, uh-huh, diciamo che ho meno freni. Hai capito, Carletto? Sei meno da rovinare. No, mi piace molto il discorso che fa Rinaldi. A parte che è un cognome che per me è importantissimo, perché ho avuto Michele Rinaldi ai tempi del cross, quindi sì, è un cognome importante, quello. Rinaldino è un cognome importante. Però i discorsi che ha fatto sono molto belli, costruttivi, veri, da pilota che sa cosa va a fare e sa che testa deve avere. Mi piace molto il discorso che ha fatto, chiaro, senza tanti fronzoli di qui, di là dal mare, come si dice. È molto chiaro, il pilota c'è, l'ha dimostrato. È chiaro che il passaggio ti comporta di avere una testa focalizzata in un certo modo. C'è qualche pressione in più, evidentemente. Cioè, se quando sei in un team che non è quello ufficiale, hai un po' meno pressione, certo, però dimostri quello che hai. Lui l'ha dimostrato anche di più di quello che ci si aspettava in generale, onestamente. Anche perché Ducati a Ruba vuole vincere il team, cioè è ora, la vediamo tutti, è ora che le premesse della vigilia di ogni anno del team vengano portate a compimento. Questo lo sai, vero Michael? No, esatto, assolutamente. Ducati, cioè, si corre per vincere, non è che è per altri risultati. Sì, a Ruba e Ducati hanno investito su di me, quindi c'è un motivo. Io ovviamente cercherò di portare comunque anche il mio spirito, che comunque voglio ricordare sempre che quando noi corriamo in moto è la nostra passione, no? Uh-huh. È diventato un lavoro, però bisogna comunque prendere ogni volta che sali in moto, essere felici, e questo secondo me ti fa andare sempre più forte. Quest'anno l'ho capito anche nei momenti difficili, e ti fa affrontare anche i momenti difficili meglio. Quindi bisogna divertirsi quando si guida e ovviamente fa risultato, però se la situazione è serena, secondo me arriva. Quindi bisogna lavorare duro, più degli altri, però sempre mantenere un clima molto sereno. Grazie, bocca al lupo, Grazie, grazie Michael. Adesso c'è il traffico, poi chiediamo insieme, Carletto, a Celestino Vietti se anche lui è felice tutte le volte che sale in moto. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. We'll be right back. convocati. Carletto, dove arriva Celestino Vietti? Ma guarda, ti dico, Celestino Vietti arriva, è già arrivato in alto, può arrivare ancora più in alto. Perché, guarda, devo dirti, prima di parlare con lui, una cosa mi ha colpito molto di Celestino, al di là del talento che ha, e vabbè, questo fa parte del gioco, è l'intelligenza con cui gestisce le gare, e non è da tutti, specialmente nella Moto3, perché lui ha una grossa intelligenza. Secondo me gli ultimi 5 giri lui sa un po' come va a finire e cosa deve fare, è un po' il Dovizioso dei bei tempi, dico io. Dovizioso gli piace la freddezza, Dovizioso era sintomatica, nel senso che sapeva già gli ultimi giri come gestire la gara, e Celestino mi pare che sia su questa direzione, ed è un bel essere questo. Non è che tutti i piloti lo hanno, molti vanno all'ultimo giro, al penultimo giro. Lui sa già, secondo me, cosa deve fare. Tanto 119 punti, terzo in classifica, VR46 che va fortissimo anche in Moto2. È vero che Cele, buongiorno, ciao. Ciao, ciao, ciao. È vero quello che, ciao, dice, è vero quello che dice Carletto, ciao, che gli ultimi 5 giri sai già come va a finire? No, oddio, non sempre. Però più che altro... E cerco di capire, la cosa che cerco di capire un po' di più è chi è un po' messo meglio, chi è il più veloce, ma anche vedendo le prove comunque ogni tanto si vede che c'è qualcuno che ne ha un po' di più, però in Moto3 è sempre un terno all'otto, è sempre difficilissimo capire se qualcuno è in difficoltà o se qualcuno è veramente veloce, quindi bisogna anche ogni tanto provarci e vedere come va. Dieter e Arbolino, Carletto, sono i due diamanti grezzi che abbiamo in Moto3, giusto? Ma direi di sì, tutte e due, ma si vedeva già anche dall'anno scorso. Cioè, Celestino ha fatto delle bellissime gare, era uno che quest'anno doveva assolutamente uscire ed è uscito. Tony, anche lui, è l'ultimo anno che fa la Moto3, e chiaramente se la giocherà tutta. Abbiamo due bei diamanti, anche un po' più di grezzi. Secondo me incominciano ad aver tagliato qualche tagliatore, li ha resi già dei bei diamantini. Sono, secondo me, già pronti per fare la Moto2, al di là come finisca quest'anno, secondo il mio punto di vista. È vero, Cele? Sei pronto per fare la Moto2? Io non lo so ancora. È una cosa che mi piacerebbe molto e che spero comunque che si avveri. Però per ora cerco di rimanere il più concentrato possibile sulla Moto3, che sarà, dai, comunque importante cercare di finire bene l'anno. Mancano comunque ancora 5 gare, quindi è ancora tutto da vedere. E 5 gare, 119 punti tu, poi c'è Arenas che guida la classifica, 135, non puoi non pensare non solo agli ultimi 5 giri della corsa, Alemana hai vinto, non puoi non pensare a quel traguardo, giusto? Ma sicuramente... andando avanti nella stagione comunque ci sto pensando un pelo di più, anche perché ci stiamo avvicinando, però secondo me allo stesso tempo è molto importante anche cercare di rimanere il più liberi con la mente possibile e correre con meno pressione possibile, perché comunque cerco, dai, di pensarci, ma non troppo, per non condizionarmi, ecco. Grandissimo, in bocca al lupo. Ciao Celestino, a presto. Bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Senti Carletto, abbiamo ancora 50 secondi, giusto il tempo per farmi un bel pronosticone sulla gara di domenica. Mi vuoi prendere per matto, sai che per fare i pronostici in questo campionato è come tirare su da un sacchetto. Ma guarda, io continuo a dire che Dovizioso può vincere il mondiale. Anche se non è a posto di testa, secondo me, più che di moto. Può darsi che qua faccia una svolta. Io sono convinto che con la moto che ha in questo momento può giocarsi in mondiale. Deve svegliarsi e diventare il Dovi che conosciamo tutti. Io sono ancora convinto, guarda, il pronostico lo faccio, sono convinto che Dovi il mondiale se lo possa portare a casa. Questo ne sono convinto, sarà. Per domenica è difficile dirlo, è una pista che alla Ducati può anche andare bene, come andrà bene a Yamaha, come bene a KTM, sai, poi non è questione di pista, non è questione di gomma, è questione di pilota. è questione della testa dei piloti, e dei momenti, vedi, dei piloti che vincono che hanno la testa vincente, dei momenti che perdono che la domenica prima ha vinto, quindi è per questo che è molto difficile. Il filo è sottilissimo. Beh, sottilissimo, guarda, vabbè, quasi dentale. Vabbè, quasi non, dentale. Non ti sei voluto sbilanciare, ma ti voglio bene lo stesso. Ciao Carletto, alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao a Carlo Pernat, a Claudia Schiattone, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it